questo universo sfatto, ho compreso che non ero imperfetto. Ritroverò la vergine che sfiora la bellezza che è in noi, che dentro di noi è singolare e personale. Sento che l'amore è il mio tempo, ho perso te, ma ora mi sento libero ed ho compreso che non ero imperfetto. Na, na, na, na. Sam.